Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà, al profitto e al suo volere. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Restiamo Animali, che arriva oggi domenica 28 aprile 2013 alla puntata numero 86. Oggi ad accogliervi, come sentite, c'è la voce di Lorenzo Guadagnucci. Ma non temete, anche Camilla Lattanzi, Sara Razzoli, Beatrice Montini, Valentina Reggioli sono ancora dei nostri, avrete modo di ascoltarle. Per un giorno l'unico maschio della redazione è riuscito a strappare il microfono per l'introduzione. Quella di oggi è una puntata molto particolare perché gran parte sarà dedicata a un reportage che è stato realizzato non dalla nostra redazione ma da Radio Cane, una web radio militante che ci ha concesso di diffondere questa sua realizzazione che racconta un evento, un fatto molto particolare e molto importante, avvenuto il 20 aprile scorso, nell'ambito della manifestazione che si è tenuta a Milano contro la vivisezione, il corteo nazionale che aveva come titolo Abbattere il muro di silenzio. Ecco, il fatto che Radio Cane ci racconta è l'occupazione di uno stabulario, uno di quei luoghi terribili nei quali vengono reclusi gli animali destinati alla sperimentazione. Un gruppo di attivisti ha occupato questo spazio e 5 persone si sono chiuse all'interno del Dipartimento di Farmacologia in via Vanvitelli 32 a Milano. Alcuni si sono anche incatenati alle strutture di questo luogo e si sono fermate per alcune ore, finché non sono riuscite, al termine di una trattativa, ad abbandonare il luogo, portando però con sé moltissimi degli animali che vi sono reclusi, conigli, cavie, topi. È stata un'incursione molto rischiosa, anche sul piano personale, perché da questa vicenda nasceranno sicuramente denunce e processi di ordine penale. Ma proprio per questo ci sembra importante dare voce agli attivisti che hanno partecipato a questa azione di liberazione e anche di denuncia, che porta un contributo molto importante alla lotta contro la sperimentazione animale. Gli attivisti che sono entrati all'interno dello stabulario del Dipartimento di Farmacologia appartengono al coordinamento Fermare Green Hill, che è stato il protagonista delle lotte contro l'allevamento di cani beagle di Montichiari a Brescia, una lotta che si è conclusa con un successo. Anche lì vi fu una liberazione condotta violando le regole, le leggi, e c'è un processo in corso per questo. Dopodiché si è arrivati per ordine della magistratura di fatto alla chiusura di quell'allevamento e alla distribuzione fra attivisti, cittadini che hanno voluto accoglierli, degli animali che vi erano imprigionati. Possiamo dire che stiamo ancora vivendo la stagione delle liberazioni e delle lotte di liberazione dalla vivisezione e questa è una tappa importante. Vi proponiamo il documentario realizzato da Radio Cane, così come è stato proposto anche sul web. Nello spazio che ci rimane parleremo poi di cultura, di libri e proporremo la ricetta scelta per voi oggi da Sara Razzoli. Guarda in viso, tienili a memoria, chi ci uccise e chi mentì. Compagno, porta la tua storia alla certezza che ci uni. Questo pugno, questo canto che va è l'internazionale, un'altra umanità, questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Noi non vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà, da continente a continente. Questa terra. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Noi ce ne andremo soltanto quando tutti gli animali saranno fuori di qui e saremo gli ultimi a lasciare questo piano. In questo momento io sono dentro lo stabulario in una delle stanzette dove ci sono i carrelli con su gabbiette piene di topi, e davanti a me è una stanzetta piccolissima, ce ne sono circa una quindicina, ci sono veramente non saprei neanche come, almeno 50 gabbie e ognuna all'interno ha almeno 2-3 topi, se non addirittura 5-6, e così per tutte le altre stanze presenti su questo quarto piano. In più c'è anche una stanza in cui c'è lo stabulario dove ci sono circa 16 conigli. Qua è veramente una situazione surreale, anche se si possono vedere i video, le foto, ma è difficile descrivere come ci si sente essendo qua e leggendo che cosa fanno a questi animali, da quanto tempo sono rinchiusi qua dentro e da quanto tempo non vedono altro che plexiglass, cibo sotto forma di pallet e acqua distribuita da un beverino. È una cosa assurda, hanno tutti quanti degli sguardi spenti. L'unico momento in cui il loro sguardo cambia è quando vedono la presenza umana e si terrorizzano, cercano di scappare, perché è evidente che l'unico contatto che abbiano con gli esseri umani è quando i vivisettori li prendono con i guanti sterili per portarli giù nel laboratorio dove verranno effettuate delle iniezioni probabilmente. Quasi tutti sono topi transgenici, abbiamo trovato i documenti di provenienza, vengono dalla Charles River, che è un allevamento specializzato in roditori in provincia di Lecco. E ci sono molti topi transgenici completamente nudi, quelli che sono fatti apposta per testare e fare esperimenti sulla pelle o sul cancro. E ci sono veramente migliaia di questi individui che sono stipati qua dentro e ognuno identificato da un semplice cartellino che appunto per i vivisettori è l'animale. Entrare qua è stato sorprendentemente facile, anche se non ce lo saremmo assolutamente mai aspettati. Però appunto ci siamo barricati dentro, abbiamo cominciato a esplorare tutte le stanze, a documentare la situazione che ci siamo trovati davanti, e siamo entrati in possesso di documenti dello stabulario, li abbiamo tutti quanti filmati, fotografati e li abbiamo spediti fuori da qui, in modo che avremo modo di rendere pubbliche moltissime informazioni su quello che accade qua dentro. Ci sono i cartelli di rischio biologico e rischio infettivo e non sappiamo bene cosa possano sperimentare in questo posto, in questo momento, ma siamo sicuri e determinati dal fatto che non ce ne andremo da qui senza gli animali. Ormai anche i vivisettori stessi hanno ammesso, per mano della loro portavoce che è venuta qua davanti alla porta a parlare con noi, che ormai gli animali sono inutilizzabili se non inservibili, perché nel momento stesso in cui siamo entrati li abbiamo infettati praticamente, quindi sono per loro inutilizzabili. E quindi ci hanno proposto di andarcene con tutti gli animali che possiamo portarci appresso noi che siamo barricati qua dentro. C'è una trattativa in corso per avere tutti gli animali, l'Ateneo è disponibile a darli tutti, ma non a firmare nessun impegno per darli su questo, cioè appunto a firmare, a mettere per scritto questo impegno. E quindi stiamo ancora trattando i ragazzi e le ragazze qui, non sono disposti a rimanere ancora perché vogliono un impegno formale scritto che gli animali vengano dati. Comunque in ogni caso ci siamo messi da parte tutti i cartellini identificativi degli animali, che appunto per i vivi sempre significa mesi se non anni di esperimenti, e siamo pronti a distruggerli e buttarli dalla finestra appena cerchino di entrare con la forza o cerchino di, insomma, usare la violenza sulle persone che sono venute a sostenere la nostra azione. Il modo in cui loro si stanno difendendo il piano è che hanno barricato la porta con delle catene, e è una porta antipanico, e alla catena nel mezzo c'è un blaster, un lucchetto che è legato al loro collo, quindi se viene aperta l'antipanico verso l'esterno forzando le catene, loro vengono strozzati, quindi c'è il loro corpo a difesa dell'apertura della porta. In ogni caso, appunto, abbiamo preso possesso di tutto il piano, quindi tutto il quarto piano e l'accesso al tetto sono sotto il nostro controllo. Ci siamo organizzati in modo da poterci barricare in alcune stanze in cui abbiamo ammassato tutte le nostre provviste, perché appunto contavamo e contiamo di rimanere qua anche diversi giorni. Tutte le vie di accesso a questa zona sono state bloccate, ovviamente noi siamo in strada, ci sono i mezzi della polizia in strada, per cui anche il passaggio in macchina non lo vediamo, siamo un po' isolati, non chiusi ma isolati un po' dalla vista delle persone, quindi non abbiamo avuto grossi contatti con il quartiere. Beh, il dispiegamento di forze è decisamente imponente, nel senso che ci sono almeno 5-6 camionette in assetto antisommossa, e tutte le porte che danno sulla tromba, ci sono due porte alle quali ci siamo allucchettati per il collo, che danno sulle due trombe delle scale di questo palazzo, e sono costantemente presidiate dalla Digos, dai carabinieri, e ogni tanto abbiamo intravisto anche qualche vigile del fuoco. Quindi probabilmente accanto a una apparente soddisfazione delle nostre richieste, comunque si stanno anche chiedendo qual è il modo più veloce per poterci tirare fuori da qua. Però è evidente che non lo possono fare se di fuori ci sono molte persone, come esattamente in questo momento. Ma diciamo che c'era 500 persone almeno sotto l'università, sì. E la forza numerica è stata importante, ci ha dato la possibilità anche di arginare eventuali azioni di forza, ed è stato molto importante per arrivare sin qua sotto il corteo. E abbiamo avuto il sostegno importante dell'occupazione Lambretta occupata, che ci ha dato disponibilità anche negli spazi interni, per utilizzarli anche per stare al computer e spedire immagini eccetera. È stato un sostegno importante, ci sono resi disponibili anche per cucinare per la cena, perché noi siamo disposti a stare qua molto a lungo. Questo è stato un appoggio molto importante che abbiamo ricevuto. Dato che loro stessi hanno ammesso che tutti gli animali sono completamente inutilizzabili, non volerceli affidare tutti è semplicemente un atto di forza nei confronti di questi individui, perché appunto ci hanno candidamente detto che praticamente li uccideranno tutti, quindi piuttosto che darli a noi e consegnare la sua vita libera, li vogliono vedere morti e buttati nella spazzatura. Quindi questo, vabbè, dice molto probabilmente su che tipo di persone siano. Yeah. non è possibile comunicare con queste persone, nel senso che comunque ci si rende conto di quale sia l'abisso che ci distingue, no? Loro non vedono degli individui, non vedono qualcuno, loro vedono delle cose, quindi probabilmente non riescono neanche a capire perché siamo così interessati alla sorte di dei semplici topi o dei semplici conigli che potremmo andarci a comprare tranquillamente in qualche negozio. Nel 2006 c'era stata un'azione anonima in cui delle persone di giorno erano entrate e dallo stesso quarto piano avevano portato via 10 cani, 12 conigli e centinaia di topi e ratti. Era stata un'azione eclatante, soprattutto perché è compiuta in pieno giorno in università, portando via anche animali molto visibili come i cani, portati via al guinzaglio. C'erano diversi testimoni, è stata una cosa raccontata come un divertimento anche da... ricordo bene il benzinaio intervistato in televisione che aveva visto questa scena. Quindi nulla, boh, sicuramente quell'azione ha avuto un effetto, anche perché adesso gli stabulari per esempio dei cani sono vuoti da tempo e inutilizzabili perché sono stati adibiti altro. Bye, bye, bye, baby, bye, bye. Quindi la trattativa è durata qualche ora e grazie a attivisti del coordinamento Formare Green Hill e dell'associazione Vita da Cani siamo riusciti con questa trattativa a ottenere, insomma, che ci venissero affidati questi animali, non per altro, ma il motivo è che comunque noi li abbiamo resi inutilizzabili, perché appunto questi animali erano sottoposti ad esperimenti particolari, erano tutti in delle stanze dove si doveva entrare con un'attrezzatura particolare, con mascherine, guanti, e quindi questa trattativa all'inizio era un po' complicata perché loro dicevano va bene, uscite con gli animali che riuscite a prendere. Poi si è arrivati a questo successivo passo, uscite con gli animali che riuscite a prendere, e poi in settimana vediamo tutti gli altri. Però non volevano farci utilizzare le scatole, appunto i box dove sono tenuti questi animali, quindi abbiamo chiesto se potevamo utilizzare delle scatole di cartone che erano lì, quelle che si usano per i rifiuti tossici che vengono prodotti in quantità in quel posto. Sono delle scatole che si montano e quindi abbiamo riempito queste scatole di topi, che sono quelli con le dimensioni più piccole, un coniglio, purtroppo ne sono rimasti altri 17 lì, però appunto noi torneremo settimana prossima e prenderemo tutti gli altri. Questo è quello, esattamente quello che ci eravamo prefissati, quindi siamo felici, anche se la Digos ovviamente ci ha detto che le conseguenze per noi sono molto pesanti, però penso che ne sia valsa la pena, anche perché stando lì in tutte queste ore abbiamo proprio visto quanto, come se non lo sapessimo già, ma comunque abbiamo visto come questi animali desiderano solo la libertà, in ogni secondo della loro vita cercano di uscire da queste gabbie e non cercano di fare nient'altro che appunto cercare una vita che lì non hanno. Quindi per noi va benissimo, anche se ci saranno delle conseguenze, comunque i nostri compagni ci sosterranno e le affronteremo. Pur sostenendo azioni che vengono compiute in altri momenti della giornata in modo anonimo, che si è arrivato il momento comunque di portare alla luce platealmente quello che succede nei laboratori di vivisezione, senza dover essere noi a nasconderci perché ne parliamo o perché vogliamo mostrare cosa succede agli animali o il fatto che gli animali siano reclusi e sottoposti a esperimenti. Abbiamo deciso comunque di rischiare in prima persona in questo. Questo tipo di azione serve perché prima di tutto abbatte il tabù dell'illegalità, è vero, abbiamo fatto un'azione illegale, ma è un'azione giusta e quindi deve essere sostenuta. Infatti, come abbiamo visto, molta gente è venuta a sostenerci qua sotto. Sfido chiunque a dire che un'azione del genere che sia riprovevole o che non sia moralmente accettabile, perché quello di cui parliamo sono individui che sono imprigionati di fatto e esseri umani che costruiscono la loro vita, la loro carriera sulla pelle di questi animali. Quindi va detto, finalmente va detto alla luce del giorno e mostrando anche le nostre facce, non nascondendoci. चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi vi propongo un primo di pasta, semplice e gustoso. Si tratta di penne al sugo di fagioli e radicchio. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di penne integrali, ma potete usare il formato di pasta che preferite, mezzo cespo di radicchio rosso, 250 g di fagioli borlotti già cotti, 250 g circa di polpa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, una cipolla rossa, una carota, un rametto di rosmarino, un peperoncino secco, un bicchiere di vino rosso, sale, pepe, un cucchiaino di zucchero di canna e olio extravergine d'oliva. Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente. Potete anche non salarla, tanto il sughetto sarà molto saporito. Nel frattempo, in una larga padella, scaldate un po' d'acqua con un filo d'olio. Tritate finemente l'aglio, il peperoncino e il rosmarino e tagliate a pezzettini la cipolla e la carota. Gettate tutto in padella e fate stufare per qualche minuto a fuoco vivace. Se per caso dovesse seccarsi, aggiungete un pochino d'acqua. Tagliate il radicchio a striscioline e fatelo saltare nella padella insieme alle verdure. Aggiungete anche i fagioli, il vino rosso e lasciatelo evaporare. A questo punto abbassate la fiamma. Aggiungete la polpa di pomodoro, lo zucchero di canna, sale e pepe. Mescolate bene, coprite con un coperchio e lasciate sobbollire fino a quando non verrà pronta la pasta. Scolatela ancora bella al dente, ripassatela nel sugo e terminate la cottura mescolando bene. In ultimo, servite la pasta con un po' di olio extravergine d'oliva e se la volete ancora più hot, con una spruzzatina di peperoncino in polvere. Ciao, alla prossima! Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Avranno da dirsi un biologo e un critico letterario al punto da scrivere un libro a quattro mani? è in libreria L'uomo, i libri e gli altri animali di Remo Ceserani, studioso di letteratura comparata, e Danilo Mainardi, etologo, divulgatore scientifico, presidente dell'Unione Atei Razionalisti Agnostici. Mainardi è famoso per avere provato che anche le specie animali posseggono in certa misura la capacità tipica dell'uomo di produrre e trasmettere cultura, di trasferire cioè da un individuo a un altro soluzioni di problemi e innovazioni. Il libro è strutturato come una successione di epistole nelle quali i due autori duettano facendosi domande, ponendo questioni, abbozzando ipotesi o comparazioni che spaziano dall'umanità al mondo animale, facendoci capire quanto poco sappiamo degli altri abitanti di questo piccolo pianeta. Eppure tutti i grandi filoni del sapere hanno in comune l'osservazione della natura. Antichi filosofi, musicisti, poeti, scrittori e naturalmente scienziati. Ciononostante la cultura umana è talmente concentrata su un'unica specie, ovvero la nostra, che è un vero piacere e uno stimolo nuovo per la mente un libretto come questo, nella sua innovativa forma di divulgazione scientifico-letteraria, con la quale gli autori ci insegnano a conoscere meglio, prima di tutto, noi stessi. Il libro spiega bene quale sia la differenza tra un letterato e uno scienziato. All'umanista interessa solo la cultura, o forse sarebbe meglio dire la storia culturale, della specie umana. Lo studioso di biologia, invece, ha uno sguardo che si allontana di 4 milioni di anni, quando le prime forme di vita sono apparse sul nostro pianeta, e la sua attenzione si concentra sul gioco sempre meno misterioso, ma ancora largamente sconosciuto, dell'evoluzione, quindi della differenziazione e della complicazione di queste forme di vita con il loro rigoglio, le crisi, gli equilibri, gli squilibri, le estinzioni, le nuove comparse, i mescolamenti. In questa storia l'uomo non è mai il protagonista assoluto, ma solo una specie tra le altre, una specie che sta facendo la sua breve comparsata come tante altre hanno fatto prima di lui. Nel testo si affrontano i massimi sistemi, ponendo grandi domande su comunicazione, cultura, paure, aggressività e violenza. Ma si sta anche nel micro. Per esempio ci si chiede se il canto degli uccelli sia solo funzionale o anche esteticamente consapevole e compiaciuto. Si scopre che i pesci hanno rapporti di vicinato, che i delfini si chiamano per nome, che un cavallo di nome Ciolla in Nevada dipinge quadri astratti senza alcun tipo di addestramento o coercizione, che uno scimpanzé di nome Congo, scoperto dal grande zoologo inglese Desmond Morris, ha dipinto quadri talmente belli che Picasso se n'è comprato uno. Scopriamo anche che i colombi viaggiano per chilometri e chilometri collegando la posizione delle costellazioni con il momento dell'anno e del giorno in cui compiono l'impresa. Leggendo queste cose ci si sente un po' ridicoli a separare la specie umana dal resto del mondo biologico. Infine si parla di libri, di tanti libri. Da Umberto Eco a Eben Ebensfeld, da Bauman a De Waal, da Freud a Fukuyama, dal manifesto del Partito Comunista al manifesto per la coscienza degli animali. Perché l'uomo è l'animale più culturale di tutti, quello più specializzato a livello della sua biologia per produrre cultura. I suoi prodotti culturali, quindi, come dice uno degli autori, non sono qualcosa di scisso dalla sua biologia, ma un'espansione. Una parte staccata ma non indipendente del suo fenotipo comportamentale. Consigliamo quindi l'acquisto o il prestito anche in biblioteca dell'Uomo, i libri e altri animali, dialogo tra un etologo e un letterato di Remo Ceserani e Danilo Mainardi, edito per i tipi de Il Mulino. Buona lettura dalla vostra Camilla Lattanzi. Noi divideremo lavoro, amore, libertà. E insieme ci riprenderemo la parola e la verità. Guarda in viso, tienili a memoria, chi ci uccise e chi mentì. compagno, porta la tua storia alla certezza che ci uni. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Noi no, vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà, da continente a continente, questa terra ci basterà, classi e secoli ci han straziato, tra chi sfruttava e chi servì, compagno, esci dal passato, verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Concludere una notizia, o meglio un'anticipazione. È appena stato pubblicato da Progetto Vivere Vegan il programma della Sagra del Seitan 2013. Siamo alla 10ª edizione, quindi un appuntamento particolarmente importante che presenta due novità. La prima è che la sagra torna ad essere articolata su due giornate, sabato 18 e domenica 19 maggio. E poi soprattutto il luogo, non più Pozzolatico sulle colline fiorentine, ma la città, l'area verde Hobby Hall sul Lungarno Aldo Moro. In questo spazio la Sagra del Seitan riproporrà la sua formula tipica con gli stand di prodotti e associazioni, con un palco per le conferenze, la musica dal vivo e poi con un ristorante e un bar che saranno sempre aperti durante tutta la durata dell'evento. Un'occhiata al programma che spazia fra presentazioni di libri e incontri con attivisti e personaggi di rilievo del mondo animalista e antispecista. Gli incontri del sabato prevedono la presenza di Simone Montuschi, di Essere Animali, una delle associazioni più attive con le investigazioni in allevamenti e altri luoghi di segregazione degli animali, e poi la psicologa Anna Maria Manzoni, ben conosciuta al pubblico di Restiamo Animali, che parlerà sul tema vittime di ogni specie, violenze sugli umani e violenze sugli animali, e poi Andrea Malgeri, che proporrà il primo ricettario vegan a fumetti. Nella giornata di domenica avremo la presentazione di alcuni libri, Viaggio fra i sapori etnico-vegani, edito da Progetto Cultura, piccolo libro Natura infranta, del quale parleremo a breve a Restiamo Animali di Massimo Filippi, uno degli attivisti del gruppo milanese Oltre la Specie, poi la presentazione di un libro di Leonardo Caffo, una interessante riflessione filosofica, il titolo è Il maiale non fa la rivoluzione, manifesto per un antispecismo debole. Poi Dora Grieco e Laura Mencherini presenteranno la loro guida al vivere vegan, una bussola verde per orientarsi nel mondo vegan. Da segnalare anche l'incontro con Adriano Fragano, animatore di Campagne per gli Animali, che abbiamo intervistato in occasione della polemica mediatica scatenata dall'affissione a Grosseto in altre città di un grande manifesto che mostrava un bambolotto spezzato e confezionato come cibo da supermercato. Fragano parlerà sul tema denunciare la sofferenza, l'esperienza di Campagne per Animali e la pubblicità antispecista. Tutti gli incontri saranno coordinati da Giuseppe Coco, altra voce ben conosciuta dagli ascoltatori di Restiamo Animali, protagonista della prima edizione della nostra trasmissione. Torneremo a parlare di questo evento. Nel frattempo, per ogni informazione è possibile consultare il sito sacradelseitan.it. Con Restiamo Animali ci ritroveremo giovedì mattina alle 9.50 con replica alle 16.05 per l'edizione breve in pillole e domenica 5 maggio per la consueta puntata delle 12. E non dimenticate nel frattempo di firmare la petizione europea Stop Vivisection sul sito stopvivisection.eu. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.